A tempo di sport di Gigi Garanzini. Laura Vanossi in redazione, Fabio Cantadori in regia per questo venerdì di sorteggi nel calcio, di euro sorteggi. Subito vi dico che la Fiorentina nel preliminare di Champions League, che si annunciava difficilissimo, ha preso lo Sporting Lisbona ed è ancora andata bene, perché è bizzarro, magari anche condivisibile se l'obiettivo è quello di allargare sul serio le frontiere del pallone, comunque il sistema con cui sono stati strutturati questi accoppiamenti. Troviamo Lione, Anderlecht, Celtic, Glasgow, Arsenal, Timișoara, Stoccarda, Sporting Lisbona, Fiorentina, appunto, Panathinaikos, Atletico, e nell'altra parte del tabellone squadre campioni dei loro paesi ma senz'altro di minore levatura. Ne parleremo ampiamente. Vi dico solo che nell'Europa League invece la Roma ha preso gli slovacchi del Košice, la Lazio gli svedesi dell'Elfsborg, gita al nord anche per il Genoa che giocherà con i danesi dell'Odense 20 e 27 agosto per l'Europa League. Più tardi avremo tempo e modo di parlare molto di calcio, di questi sorteggi, della vittoria della Roma di ieri sera, del momento della Fiorentina, del bilancio positivo della Juventus, questi tutti gli argomenti in scaletta. Però è venerdì e soprattutto ci sono diversi argomenti di cui discutere anche nel basket. Palla spicchi. Coach Dan Peterson, buon pomeriggio. Ciao Carlo, amici sportivi, buon pomeriggio, good afternoon. Good afternoon, tutti. Coach, depressione in agguato. Oggi leggevo Luca Chiavotti sulla Gazzetta dello Sport che provava ad introdurre alcuni motivi per cui essere fiduciosi per un'Italia agli europei. Il contrario sarebbe un mezzo disastro per la nostra pallacanestro. Da 48 anni non stiamo fuori dall'Europa, potrebbe essere purtroppo la volta buona. Tu come vedi questo inizio difficile dell'Italia, questa sconfitta con una Francia che, insomma, tanti giocatori NBA, però non è sembrata esattamente il massimo? Innanzitutto saluti a Luca, che cerca da due giorni, che mi evita da due giorni. E quindi adesso lo becco questo pomeriggio. Ma ovviamente, come tutti, ho visto la partita. Cioè, se devo fare un punto sulla situazione, parlo da ex allenatore, non uno che sta lì a criticare la gestione della partita, non avrei cominciato a zona, perché penso che sia un messaggio negativo per la propria squadra, e come abbiamo visto loro hanno aperto due schiacciate contro la zona e hanno preso fiducia anche la strada giusta. Quindi io avrei voluto vedere l'Italia aggredire. Infatti dopo bisogna dire che anche giocando con quello che Guido della Gazzetta ha definito i gregari, io li chiamo i Marines, cioè i vari giocatori da playground, Gigli, Giacchetti, Mancinelli, Mordenti e compagnia, hanno fatto la rimonta per rientrare in partita. Partita particolare, ha ragione tu a dire, Carlo, senza Tony Parker però, in quella partita lì, senza Tony Parker, Francia battibile. Assolutamente battibile, anche se sul piano del gioco meglio di noi, inspiegabilmente. Molto si parla di Bargnani e Bellinelli, no? Oggetto del contendere, coach, però questi due ragazzi, insomma, queste sono partite di playoff, fuori stagione totalmente, però questi due ragazzi è tanto tempo forse che non giocano da protagonisti, che non devono giocare da protagonisti partite di questa intensità emotiva. Ma innanzitutto anche qui non voglio fare una critica, ma un'osservazione, che la Francia ha fatto uno schema ripetutamente all'inizio della partita contro uomo, adesso dopo la zona ha dato la palla al post alto, passaggio pivot basso, schiacciata, però contro l'uomo hanno fatto lo schema, quello che io definisco schema FIBA, e Luca sa benissimo di cosa parlo, cioè lo schema che fa Panathinaikos con Obradovic, CSKA, adesso Real Madrid con Messina, Scariolo, cioè i grandi allenatori fanno, e Vincent Collet, che è l'allenatore della Francia, che era nato a questo grande club, conosce questo schema. L'Italia aveva più un gioco libero, fidandosi molto a Bellinelli e Bargnani. Io sono più o meno del tuo parere, Carlo, bisogna lavorare per loro con lo schema, 16.000 blocchi, che ne so, eccetera, e poi loro hanno la palla per o il tiro o l'uno contro un palleggio, ma non palla subito a loro e pensare che loro creeranno come dicono in America, fabbricare il proprio certo, tiro, non ci certo. credo. Nella dolorosa rassegna stampa di oggi c'è anche Flavio Vanetti, che ha intervistato un po' di, insomma, un po' di ex illustri, da Cagliaris ad Ossola, soprattutto in chiave playmaker. Si dice di difficoltà nel trovare play vero, difficoltà nell'applicazione dei fondamentali, di passaggio, eccetera, eccetera. Però io vado a monte, coach. Allora, siamo partiti con Poeta, che doveva essere il regista titolare designato, e siamo andati avanti così per tutta la preparazione. Poeta gioca non bene, in maniera inutile, se mi permetti il termine, nei primi minuti. Poi viene sostituito, poi Vitali che gioca bene, che segue bene l'andamento della partita, Poeta lo rivede alla fine. Insomma, mi è sembrata una gestione dei playmaker un po' strana da parte di Dre Calcati. Se c'è un playmaker titolare è quello che gioca, poi ci sono i cambi, a prescindere dal fatto che giochino bene oppure meno bene, però il playmaker titolare deve essere uno. Rispondo io che innanzitutto io amo Poeta. Sì. Premessa, ok? Premessa. Faccia che ha lui, personalità che ha lui, cioè, e questa qualità del playmaker, della personalità, del leader in campo, eccetera, lui ha queste qualità, non ci sono dubbi, ma non è esattamente un playmaker puro adesso. Poi l'altra cosa che, se io sono, ma non per snobismo, ma per gerarchia, quello che vuoi dire, Bellinelli, Bargnani, Poeta magari lo conoscono appena, hai capito, cioè non può avere la squadra in mano. E l'Italia, Vitali non è un playmaker puro, ok? Giacchetti non è un playmaker puro, Mordenti non è un playmaker puro, l'Italia non ha più il Ossola, certo, il Cagliaris, il Marzorati, che non era neanche lui. Marzorati era 1-2 Marzorati, più attaccante che playmaker, ma essendo tremendamente intelligente, Marzorati ha fatto anche playmaker, ma uno come Marzorati oggi non ce n'è. Sì, resta il fatto comunque che il playmaker è quello che, insomma, ha il polso della squadra, e certo, se crei questo tipo di gestione, io credo che sia la stessa squadra ad avere delle difficoltà, no? Perché se sempre abbiamo detto che il grosso punto interrogativo della nostra Italia è il playmaker, che non c'è più, come dici, e il pivot che facciamo fatica a trovare, tanto che dobbiamo giocare con Bargnani numero 5 a piazzare blocchi, a dare un po' di botte, eccetera, Carlo, non proprio nel suo ruolo. Carlo, si chiama in gergo Peterson Polo Nord, Polo Sud. Certo. Ok, pivot, playmaker. Addirittura, quando tu fai, io la nato nella nazionale, quindi sì. il Cile, ok, sì, per due anni, ne so qualcosa di questo. Tu fai una squadra di, non 10, 12 giocatori. Allora, l'undicesimo, dodicesimo, terzo pivot, terzo playmaker. Cioè, io ho avuto grande discussione semi-amichevole con Giancarlo prima nel 76, quando ho portato solamente due playmaker, Iallini e Marzorati. Ha detto, Giancarlo, abbiamo appena vinto lo scudetto con Cagliaris, ti servirà il terzo playmaker, porta Cagliaris. Non l'ha fatto. Cosa succede? Jugoslavia, quarti finale, 5 falli Iallini, 5 falli Marzorati, rimontano loro, chi fa il canestro vincente per vincere per uno la Jugoslavia? Slavnes, playmaker. Ho detto tutto, ok? Sì, sì. E sono importanti, bisogna avere tre, e bisogna, hai detto tu Carlo prima, dare responsabilità e anche sopravvivere i momenti difficili. Però una partita così, come la Francia l'altro ieri, cioè, sono 40 minuti, si gioca la vita, ok? Capisco, sì. Recolcati, se Poeta non me la dà oggi, mi darà contro Finlandia, oggi vado con, invento io, Vitale, ok? Cioè, bisogna leggere la partita, in questo qui non posso criticare Recolcati. Prima di salutarti qua c'è un ascoltatore per noi, Giacomo da Treviso, 800240024, vi ricordo il numero verde. Giacomo, buongiorno. Buongiorno, intanto saluto anche Dan Peterson. Sabato scorso ero a Conegliano a vedere l'amichevole con il Canada. Pessima figura, ma vabbè, è andata come è andata. Già comunque sabato tutti quanti, perlomeno quelli che conosco, che erano con me, abbiamo avuto l'impressione comunque che la conduzione tecnica abbia lasciato comunque a desiderare. Abbiamo visto molto pressapochismo, anche noi ci siamo chiesti ma chi è il play titolare. Ne ha fatti girare 4 durante la partita in cabina di regia, ma non abbiamo veramente capito noi chi poteva essere il play titolare, perciò credo che abbia trasmesso, credo, confusione anche alla squadra. E poi mercoledì sera è stata la riprova che indubbiamente c'è qualche problema, non è per gettare la croce addosso a Coccia e Calcati, però indubbiamente credo che ci sia un problema comunque di fondo legato, sì, alla condizione tecnica, e soprattutto credo che sia stato lasciato non tanto Mancinelli, che comunque sa anche costruirsi magari l'azione, il tiro, ma Bargnani non gli è stato ha bisogno Borgnani da quando era un gioco, ha bisogno di una costruzione che lo porti a sfruttare le sue caratteristiche, coach. Well, questo è stato un commento, cioè la cosa che mi ha colpito di questo commento qua è la semplicità con cui l'ha detto lui, come dire, fuori oggi c'è il sole, hai capito? Cioè, non, senza neanche alzare la voce, l'ha detto con una tranquillità enorme, e tutti, quando ci sono queste partite, è chiaro che la gestione tecnica va sotto l'ingranditore, non ci sono dubbi di questo. Io ho aperto il mio discorso dicendo che non avrei cominciato a zona, tanto per, ok? Quindi, però, questo, io sto dando il parere di Peterson, io non sto dicendo recalcate e sbagliate, certo, Peterson certo. È diverso. Tu non avresti cominciato a zona, certo, ecco, certo. Però è chiaro che Charlie Recalcati è sotto l'ingranditore adesso pure lui. Coach, per chiudere, siamo fuori secondo te? Manca fiducia, è in dubbio, lo senti anche dai commenti della gente, la fiducia è ai minimi termini, è finita secondo te o c'è qualche ragionevole, razionale speranza? Ok, ragionevole speranza c'è, prima di questa partita avevo detto per la qualificazione finale 50-50, Italia-Francia, perché chi esce da questo girone secondo me andrà avanti. Adesso, onestamente detto, sono 30-70 a favore della Francia, però 30 ce ne sono. Cosa deve fare l'Italia? L'Italia deve fare questo qui, a parte una partita alla volta, non deve sottovalutare la Finlandia. Perché, e poi è chiaro, in Francia deve vincere per 4 punti. Se l'Italia va in Francia e vince per 4, difficilissimo, perché ci sarà Tony Parker, si gioca in Francia, difficilissimo. Però se l'Italia gioca meglio di quello che abbiamo visto a Cagliari e vince le due partite con la Finlandia, è possibile. Però ho detto sei, perché io ti dico una cosa, caro, io temo la Finlandia, perché lì c'è Koponen, c'è Motola che dicono che è tornato, è una squadra che è una minaccia. Adesso se l'Italia va lì e perde con la Finlandia, addio. Beh, lì è finita. Coach, grazie. Amici sportivi, ciao a tutti. 800240024 è il numero verde, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Vi ripeto cosa ha detto l'urna della UEFA. Per quanto riguarda preliminare di Champions League, si gioca 18 e 19 agosto l'andata, 25 e 26 agosto le partite di ritorno. Ebbene, nella fascia più interessante, Lione Anderlecht, Celtic, Arsenal, Timișoara, Stoccarda, Sporting Lisbona, Fiorentina e Panathinaikos Atletico. Mentre per quanto riguarda la fascia dei campioni dei rispettivi paesi, perché così ha voluto Platini, sono partite di minore appeal, squadre di minore caratura certamente. Una delle due finirà nell'Europa dei grandi, in modo da allargare il discorso. Non so se siete d'accordo su questa novità introdotta da Platini. Ebbene, nell'altra fascia abbiamo Sheriff Olympiakos, Salisburgo Maccabi Haifa, Ventspils contro Zurigo, quindi Copenaghen contro Apoel Nicosia, Levski, Debrecen, squadra ungherese. Una di queste andrà a far compagnia appunto ai grandi. Chissà se ce la farà la Fiorentina, non ha pescato male i Viola, Sporting Lisbona chiaramente temibile, ma meglio dell'Arsenal, meglio del Lione, meglio dello Stoccarda, meglio di tutte queste, insomma. Andiamo però subito in Inghilterra, anche perché c'è Ancelotti che sta per parlare. Tra una decina di minuti comincia la prima conferenza stampa importante, pre-gara, di Carlo Ancelotti, che si gioca al Community Shield domenica contro il Manchester United. In Inghilterra troviamo Lorenzo Amuso. Ciao Lorenzo. Buon pomeriggio. Poi soprattutto in Inghilterra è arrivato il nostro Aquilani a Liverpool. Che notizia hai di lui, Lorenzo? Allora, l'Aquilani, come dicevi tu, è arrivato ieri sera, atterrato con un volo da Fiumicino a Roma verso le 4 di pomeriggio, e poi in automobile ha raggiunto Liverpool in compagnia del padre Claudio e del suo procuratore Franco Zavaglia. In serata il primo incontro con la nuova struttura si è recato nel tardo pomeriggio a Melwood, dove è ritornato questa mattina per sottoporsi alle visite mediche. Sono in corso in questo istante la seconda parte delle visite, dopodiché, se tutto andrà bene come ci si augura, Aquilani firmerà il contratto che lo legherà per 4 anni con il Liverpool. Vedendo nelle foto sui giornali mi è sembrato un po' spaesato. C'è chi dice potrebbe avere qualche difficoltà di ambientamento in una città non rutilante come Liverpool, uno che è nato, cresciuto in un ambiente molto diverso come quello della Roma. Aquilani arriva da lunghi infortuni, leggevo commenti positivi, se non entusiasti, di Rafa Benitez per l'arrivo di Aquilani, che è giocatore da Liverpool come età, come caratteristiche, come temperamento, come tutto quanto. Mi risulta però, non so se mi confermi Lorenzo, che i giornali inglesi abbiano espresso diverse perplessità invece sul nostro. Sì, esatto. Ti confermo che Benitez ha espresso in maniera egregia nei confronti di Aquilani, è anche sì vero che non poteva fare diversamente, è anche vero che non è un mistero che Aquilani non è una prima scelta per il Liverpool. Liverpool che aveva cercato prima Silva, lo spagnolo Silva, e poi Gareth Barry, che è passato al Manchester City. Anche i giornali inglesi hanno espresso i dubbi che tu hai, a cui hai accennato tu prima, nel senso che non hanno dimenticato di far notare come Aquilani nelle ultime tre stagioni abbia giocato soltanto 73 partite. Insomma, non è proprio un giocatore che dà le massime garanzie da un punto di vista fisico, non gioca una partita dallo scorso 11 marzo, una partita di Champions League contro l'Arsenal, e questo un po' preoccupa i tifosi del Liverpool, che tra parentesi in uno dei 1001 blog dove si raccolgono opinioni, si scambiano idee, così facevano il paragone con De Rossi, dicevano: beh, a questo punto se dovevamo spendere 20 milioni di sterline, quasi poco più di 22 milioni di euro, beh, forse valeva la pena fare un sacrificio ancora superiore e cercare di acquistare De Rossi, che è un giocatore che è molto più conosciuto da queste parti e che anche da un punto di vista, come dire, fisico-atletico, dà maggiori garanzie. Certo. Senti, invece, quanto a Carletto nostro, che tra poco parlerà, Carlo Ancelotti naturalmente, è rimasto, che si dice, che si racconta lì a proposito della retromarcia del Milan su Pirlo, e dove va il Chelsea? Su cosa si orienta il Chelsea? Ma per il momento non ci sono alternative, nel senso che Ancelotti era stato chiaro, lui voleva dei giocatori di garanzia, non vuole acquistare tanto per acquistare, e soprattutto il Chelsea non è nelle condizioni, nonostante Abramovic, non è comunque nelle condizioni di buttare via i soldi. Il mercato del Chelsea è stato limitatissimo, hanno acquistato soltanto Zirkov per poco meno di 20 milioni di euro e hanno concluso qualche operazione minore, ma tutti, ha compresi anche i vari Deco, Carvalho, che sembravano indiziati di partenza, sono rimasti. Ancelotti dovrà quindi fare buon viso a cattivo gioco, nel senso che dovrà grosso modo utilizzare gli stessi identici giocatori che l'anno scorso erano stati dati prima a Scolari e quindi a Hiddink. La novità grossa del Chelsea 2009-2010 è più che altro da un punto di vista tattico, quindi rappresentata in qualche modo da Ancelotti stesso, nel senso che rispetto ai suoi predecessori probabilmente il Chelsea adotterà il rombo piuttosto che il centrocampo in linea, da qui l'insistenza di Ancelotti di avere un centrocampista basso come Pirlo. Al suo posto giocherà Michael dopo aver provato inutilmente Deco, che non ha evidentemente convinto Ancelotti, e davanti, dietro le punte giocherà Lampard, a destra Essien e a sinistra ballottaggio tra Zirkov stesso e Ballack. Sì. Modulo 4-4-2 con due punte di ruolo, Anelka e Drogba, che ha firmato in questi giorni il prolungamento fino al 2012. E lì non ci sarà, immagino, all'inizio nessuno a dirgli no, le punte devono essere 3, 4, 5, 6, 7, a passargli le veline, a passargli i bigliettini sulla formazione. grazie Lorenzo Muso, che lasciamo alla conferenza stampa di Carlo Ancelotti. Abbiamo ascoltatori: Ezio da Torino, Ilario da Roma. Tanto per cominciare, 800 24 00 24, numero verde, ve lo ricordo. Ezio, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, volevo farle due domande. Io sono un tifoso dell'Inter, volevo sapere se lei pensa che Cassano possa fare il trequartista che cerca l'Inter, e secondo lei invece chi sarà il trequartista che prenderà l'Inter? Grazie. Grazie a lei. Quanto a Cassano, sì, sarebbe una splendida idea, però ne parlavamo giusto ieri con Gianluca Di Marzio, che è informatissimo sulle questioni di mercato. Non sarà comunque Cassano, che a Moratti ovviamente piace molto, il fantasista dell'Inter, perché l'Inter si orienterà verso giocatori un po' più economici dal punto di vista della spesa, dell'ingaggio, eccetera, eccetera, un po' meno ingombranti. Arriverà un trequartista, ma non sarà un giocatore, diciamo così, di prima fascia. Chiaro che uno come Cassano, inquadrato, uno come Cassano dedito alla causa e non ad altre cose, insomma, potrebbe essere un valore aggiunto incredibile per l'Inter. Non sarà comunque questo il giocatore che verrà messo a disposizione di Mourinho, anche perché non sono così convinto che poi Mourinho sia così dell'idea di mettersi in casa un giocatore di questo tipo. Preferirebbe altri giocatori, Deco, Schneider, come sappiamo tutti. A proposito di Mourinho, sentite questa, gli è stata chiesta da Pechino la formazione che giocherà contro la Lazio domani pomeriggio per la Supercoppa Italiana. Sentite come ha risposto Mourinho. 4-4-2 con Milito e tu davanti. Ibra ha una storia nell'Inter che è finita e non ha storia nel Barcellona. E tu hai una storia nel Barcellona che è finita e non ha storia nell'Inter. Vediamo, aspettiamo. Carina, eh? Formazione. Milito, Ibra davanti. No, aspetta un attimo, Ibra no. Ibra non c'è più, adesso c'è tu. Ilario da Roma, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, salve, e complimenti per la trasmissione. Grazie. Per la schiettezza della competenza dei suoi commenti, ecco. Grazie. Volevo un attimo osservare il calciomercato del Milan sotto due aspetti. Uno, vorrei sapere cosa ne pensa lei del prezzo a cui è stato venduto Kakà. Perché a questo punto, in comparazione con altri prezzi di cessioni, mi sembra svenduto rispetto ad altri. Penso a Ibrahimovic, lei l'ha appena citato. O ad altri giocatori. Beh, Ibra, Ilario, Ibra la valutazione è grosso modo quella di Kakà, e poi stiamo pure a discutere sul valore di dato alla contropartita di Eto'o, poi balla un sacco di soldi, 46 milioni di euro, però con quotazione siamo lì. Le rispondo subito su Kakà. Credo che Kakà fosse possibile addirittura spuntare più soldi da un Real Madrid alla ricerca del primo grande colpo di mercato. Credo anche però che Kakà sia stato ceduto un po' prima rispetto a quanto poi è avvenuto nei fatti, con l'annuncio ufficiale, col passaggio ufficiale, eccetera. Quindi l'accordo penso fosse precedente rispetto poi a quelle cifre spese per Cristiano Ronaldo e così via. Però insomma è solo un'impressione personale, direi. Ilario, prego. Sì, sono d'accordo. Il secondo aspetto è se effettivamente gli acquisti che il Milan in questi 2-3 anni non ha fatto non sono tanto dovuti forse a mancanza magari di capitali investiti dal presidente, quanto anche alla capacità di trovare dei giovani. Faccio un esempio, Motta, che ha comprato la Roma, ecco, per limitarci un esempio, che serviva molto la difesa del Milan, oppure il non investire su un centrale, ecco, mi viene in mente sempre Max Sess, sì. Ma anche che ne so, Barzagli, insomma, il Milan ha avuto dei problemi in difesa, per cui mi pare che forse sia anche un problema di saper cogliere sul mercato alcune opportunità. Ma vede, per anni, lei ha ragione senz'altro, per anni però la politica del Milan è stata molto differente. La politica del Milan è stata quella di avere molti soldi in tasca e di andare a prendere gente, mi viene in mente Stam, mi viene in mente tantissimi di questo tipo, no? Giocatori già trentenni, già maturi, già pronti per vincere, con ingaggi pesanti. Quindi la politica e la strategia del Milan, dei suoi dirigenti, è stata proprio questa. Mi risulta che ad esempio al Milan siano stati offerti a suo tempo anziché Santa Croce dal Brescia, ma è stato detto non ci interessa, non sono giocatori che fanno per noi. Insomma, per anni la politica societaria è stata differente. Adesso si tratta di cambiare rotta ed è quasi normale che anche i dirigenti si debbano adattare. Facciamo così. Altra notizia che insomma è ufficiale da oggi, anche se era ufficioso già da diversi giorni. La Juventus ha appunto ufficializzato l'ingaggio di Martin Caceres, 22 anni, difensore uruguaiano, proveniente dal Barcellona, prestito con diritto di riscatto. Alessio Secco chiude il mercato. Con Caceres chiudiamo la campagna acquisti in entrata e mettiamo a disposizione dell'allenatore un difensore di qualità che, malgrado l'età, ha già all'attivo un'ottima esperienza internazionale. Si registra invece qualche preoccupazione da parte di giocatori che erano in rosa, che tutto sommato l'anno scorso hanno fatto bene. Il primo di questi è proprio Nicola Legrottaglia. Sentiamo cosa ha detto. Non posso negare il fatto che comunque dopo 2 anni che io e Chiellini abbiamo, penso, dimostrato di essere una coppia, una delle coppie migliori, no? Del campionato. È chiaro che quando poi magari sento anche dire da parte di tante persone che, che forse la Juventus non credeva in te e ha preso uno a posto tuo, è normale che un pochino dentro di te ti dispiace. Noi vogliamo arrivare a fine anno che siamo competitivi in tutte e tre le competizioni. Questo era Nicola Regrottaglie. Invece voglio farvi sentire, prima di andare alla Spezia da Antonio e da Mario in provincia di Bologna, voglio farvi sentire Cesare Prandelli fresco fresco, il sorteggio della sua Fiorentina, sorteggio avvenuti oggi a mezzogiorno e appunto Fiorentina Sporting Lisbona, per provare a dare l'assalto alla Champions League, ovviamente all'ingresso della Champions League, non all'obiettivo finale, questo sarebbe eccessivo. Prandelli. L'opinione è che è una squadra che ha molta esperienza, una squadra che ha nella passata stagione superato la fase dei gironi, quindi una squadra importante, una squadra dove militano giocatori di grande esperienza, di grande tecnica, e quindi sarà una partita molto difficile, però in questo momento stiamo pensando di arrivare in quel periodo preparati, non soltanto fisicamente ma anche a livello psicologico, perché troveremo sicuramente un ambiente molto particolare. Beh, insomma, l'Arsenal è una squadra che conosciamo molto bene, però lo Sporting di Lisbona in questi anni ha dimostrato, come dicevo prima, grandissima esperienza internazionale, quindi se pensiamo già da oggi di essere avvantaggiati abbiamo già sbagliato l'approccio. Non vogliamo assolutamente sbagliare l'approccio, come dicevo prima, non tanto da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista psicologico. Fisico, psicologico e di organico, Prandelli non lo dice, io lo aggiungo volentieri, perché non penso che questa Fiorentina così com'è sia completa. Sarebbe interessante riuscire a parlare con Pantaleo Corvino, però è in questi giorni inafferrabile, probabilmente pieno di lavoro, perché sa che deve completare un mosaico che con la partenza di Felipe Melo necessita di almeno un paio di interventi, uno in mezzo alla difesa e l'altro a centrocampo, tanto per cominciare. Penso sarete d'accordo su questo. Antonio dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo fare una considerazione sul discorso di Pirlo, sì. Del fatto che è stato trattenuto lì al Milan, per quanto riguarda l'aspetto tecnico, io dei soldi non ne voglio preoccupare, se l'hanno fatto vuol dire che avevano fatto i conti e sapevano che possono mantenerselo. Però, ma guardi, posso dire una cosa? Secondo me Pirlo rimane un po' per questione di immagine, no? Perché in questo momento probabilmente il Milan non poteva permettersi, anche dal punto di vista dell'immagine, la partenza di Pirlo, senza avere i quattrini per intervenire sul mercato con un giocatore di pari stazza internazionale. Questa è una ragione. L'altra è che l'offerta del Chelsea non è stata considerata, al di là delle parole di Berlusconi, che ha parlato di offerta dal punto di vista finanziario molto interessante. Io credo che non sia stata sufficiente l'offerta del Chelsea per convincere il Milan, altrimenti Pirlo sarebbe partito. Credo poco nel veto così secco di Leonardo, perché Leonardo probabilmente ha in mente un Milan diverso, che non è una bestemmia, potrebbe fare a meno, un Milan differente potrebbe fare a meno anche di un giocatore dalle caratteristiche di Andrea Pirlo. Prego Antonio. Io dico che Pirlo come giocatore per me è il brasiliano italiano, io sono tifoso milanista, perciò sì, Sto parlando della mia squadra del cuore, ha le caratteristiche, salta l'uomo, vede il gioco, gioca corto, gioca lungo, è un giocatore che tutte le squadre dovrebbero avere. La sì, Cosa che ormai non funziona più è farlo giocare in mezzo al campo con vicino due persone che ormai li ha sfondate per correre anche per lui, tipo Gattuso e Ambrosini. Sì. Noi abbiamo bisogno lì di un mediano, un incontrista, e che poi davanti con tre punte o due mezze punte, comunque lo vogliono far giocare, quei tre davanti poi che se la sbrigano. Per me Pirlo e Ronaldinho sono due giocatori, e Ronaldinho messo esterno mi dice poco. E se deve giocare dietro le due punte, o gioca uno o gioca l'altro, per me occupano un posto per eventualmente un altro giocatore che a noi serviva di più. Dice una cosa, ma scusi Antonio, però al di là di Ronaldinho, che a prescindere da dove venga messo in campo, si tratta di vedere se riesce a stare in campo, se riesce a tornare ad essere un giocatore, e questo a monte. Però Antonio, quello che mi domando io, sul valore assoluto di Andrea Pirlo non esiste nemmeno una discussione, non cominciamo neanche a parlarne sul valore assoluto di Andrea Pirlo. Però se il Milan prende un attaccante come Huntelaar, che è uno che la sbatte dentro, e non c'è dubbio perché basta guardare i numeri, l'ha sempre fatto e potrebbe continuare a farlo serenamente anche in Italia, però è un giocatore come tutti i primi attaccanti, come tutte le prime punte di peso, che ha bisogno, come l'aria che respira, di cross. Chi glieli fa nel Milan? Sì, di sicuro forse ne arriva qualcuno in più da parte di Jan Kulowski, ma da parte di Zambrotta qualcuno in meno, perché sì, ormai anche lì fatichiamo. E appunto, appunto, appunto. Io credo che nell'idea di Leonardo ci fosse un Milan differente, che eventualmente poteva fare a meno della maestosità di Pirlo come centrocampista, come giocatore. Ripeto, non stiamo a discutere Pirlo, stiamo a discutere della funzionalità di questo Milan. Leonardo avrebbe in mente qualcosa di diverso. Abbiamo visto partire sugli esterni, che siano i tre attaccanti, che sia un 4-4-2, quello che volete voi, però il Milan non ha un giocatore che non sia Jan Kulowski, che non sia Zambrotta, che mi sembrano francamente un po' logori, non ha un giocatore in grado di saltare l'uomo e buttare in mezzo la palla. E allora cosa prende a fare Unterland? Mario, provincia di Bologna, buongiorno. Buongiorno, come concordo con lei. Veramente, è un'analisi perfetta. Grazie. Perfetta, non fa una piega. E allora non stiamo anche a discutere, Mario. No, ma infatti non volevo intervenire per questo. So che la stavo ascoltando e ho detto, è perfetto quello che ha detto. In effetti, come penso sia perfetto il fatto che ha detto che Kakà era già deciso da molto tempo prima. Sì, abbiamo aspettato per altri motivi, fra cui politici, prima di dare l'annuncio. Ma va bene anche questo. Va bene. Io volevo intervenire su un'altra questione, proprio totalmente opposta. Bilanci. Nel senso, mi chiedo, via di oggi la notizia che la Juve ha riportato i bilanci al pre-caos praticamente, quindi bilanci a posto, in regola, più 18%, tutti in bilancio sano, perfetto e pulito, pre-calciopoli, nonostante una campagna acquisti che io reputo una delle migliori della Serie A quest'anno, cioè ha fatto una campagna acquisti veramente degna di una grande squadra e ha ancora cessioni da fare, fra l'altro. Mi chiedo, se oggi per iscriversi alla Serie A dovessimo avere tutti i bilanci a posto, in quante squadre giocheremo la Serie A? Non tantissime, anche se la situazione sta migliorando. Sta migliorando, ma mi sa che siamo ancora molto molto indietro. Allora, mi chiedo, ci sono squadre che stanno facendo sacrifici comunque per tenere i bilanci a posto, per presentarsi un po' con le carte in regola, e altre squadre che invece possono permettersi di sperperare, scialacquare, diciamo come vogliamo, tanto poi i bilanci non servono. Non ho visto grossi sperperi nella campagna acquisti di quest'anno. Quindi vedi Milan, per esempio. Milan? Sì, Milan non è che ha fatto una campagna acquisti strepitosi quel primo anno in cui stiamo un po' ridotti. Sì, no, ma è chiaro che... Ma ripeto, per quanto riguarda il Milan è assolutamente condivisibile. Cioè, se dicono calcio sostenibile, vendetelo come volete, chiamatelo come volete, se vogliono così perseguire una politica differente rispetto al passato, secondo me fanno addirittura benissimo, non bene. No, ma è giusto, giustissimo. Perfetto, l'unica cosa che mi chiedevo è quando riusciamo a vedere finalmente una Serie A con tutti i bilanci a posto. Sì, punto. Ma io mi domando, Mario, posso dire, io mi domando anche quando vedremo una, in coro con Platini, quando vedremo una Champions League con tutti i bilanci a posto, perché se le nostre non stanno bene, ma guardi cosa c'è all'estero. Ha ragione, perfettamente vero, Quindi, quindi noi siamo giustamente censori dei nostri, no? Che peraltro mi sembra che... Insomma, il trend sia cambiato rispetto al passato e ce l'insegna la borghesia del nostro calcio, dal Genoa alla Fiorentina stessa, che vende Toni e poi vende Felipe Melo quest'anno, eccetera, eccetera. Quindi credo che il trend, non ho voglia di chiamarlo virtuoso perché è un parolone, però che il trend sia diverso rispetto al passato. È chiaro, i bilanci... sono ancora da sistemare, la gestione è ancora da sistemare, ci sono un sacco di pecche, perché nessuno mi leva dalla mente che il vero punto di svolta, che non so se vedremo mai, salvo appunto la Juventus che ci sta lavorando, il vero punto di svolta sia quello delle strutture di proprietà, sia quello di una gestione più moderna e manageriale del calcio, però insomma si sta andando da fare per rendere la situazione meno insostenibile, no? le nostre squadre. Però, santi Dio, all'estero insomma si reggono su situazioni debitorie, il calcio inglese ne è l'esempio più lampante, si reggono, cioè camminano su una crosta di ghiaccio e sotto c'è l'acqua gelata, perché se si rompe quella insomma fallisce tutto, tanto che nei giorni scorsi è arrivato il warning da parte della Football Association inglese: attenzione, non azzardatevi a seguire la variabile impazzita che stanno rappresentata dal Manchester City con gli sceicchi che buttano soldi al momento a fondo perduto, perché sennò, perché la situazione è già molto difficile. Quindi è vero quanto diciamo sul fronte interno, la Juventus torna in attivo, le altre squadre sono messe peggio, però tutto sommato ci stiamo lavorando e questo è un buon segnale, bisogna dirlo. Saluto e ringrazio per un autorevole commento in salsa viola Giancarlo Antonioni. Ciao Giancarlo, grazie. Ciao, buongiorno. Grazie per essere con noi. Senti, Sporting Lisbona, tanto per cominciare, in una Champions League dal primo turno decisamente più difficile rispetto al passato, perché così ha voluto il tuo amico Platini. Cosa ne pensi? Diciamo, nelle cinque squadre che sono capitate, forse è una delle più semplici per la Fiorentina, visto le altre, però credo che se la giocherà come se l'è giocata l'anno scorso con i cechi. Quindi è una partita equilibrata, forse chi è più in condizione in questo momento può passare il turno, però chiaramente la Fiorentina in questo caso ha avuto un sorteggio diciamo favorevole. Senti, ma a te piace questa idea di Platini per cui le non vincitrici dei campionati, anche se squadre molto forti, dal Lione all'Arsenal, alla Fiorentina appunto, all'Atletico Madrid eccetera, stanno da una parte del tabellone e i campioni, ma di un'Europa minore, vanno nell'altra parte in modo da dar loro la possibilità di entrare nella Champions League. Come la valuti, diciamo, questa? Diciamo, una valutazione così un po' particolare, però una novità, e credo che poi alla fine se una squadra è forte passa il turno in ogni caso. È chiaro che troverà più difficoltà in questo caso, però credo che sia un po' una cosa innovativa, anche per dare la possibilità ad altre squadre di poter passare il turno. Via. Per chiudere, prima abbiamo sentito Prandelli, dice dobbiamo essere in condizione fisica e psicologica, io aggiungo anche di organico, perché a questa Fiorentina manca qualcosa. Sì, credo che Prandelli è ancora ottimista perché spera che arrivi qualcuno, tutti ci auguriamo che arrivi qualcuno, però credo che per la Champions League in questo momento non abbia a disposizione gli eventuali arrivi, alla squadra, una buona squadra, però sicuramente manca qualcosa ancora per completare la rosa e diciamo la Fiorentina quest'anno purtroppo si è mossa un po' in ritardo e sì, muovendosi in ritardo in questo momento ha questa difficoltà, però l'organico è sempre valido. Però non pensi che il progetto di Della Valle stia subendo una regressione, che stia subendo una battuta d'arresto, si va avanti? L'anno scorso nel preliminare ha fatto acquisti diciamo importanti, sì. Quest'anno è successo tutto l'inverso, quindi diciamo ha ceduto uno dei migliori giocatori e poi non si è diciamo attrezzata per poter ricambiare nel modo migliore, quindi si aspetta, però come ho già detto prima è un po' in ritardo in questo caso la Fiorentina. Certo. Vediamo come va questo preliminare, che credo che sia un obiettivo importante per questa squadra. C'è dubbio anche che passare il turno vuol dire incrementare ancora più soldi. Certo, vuol dire incassare quattrini. Grazie Giancarlo, grazie. Prego. Davvero. Buona estate. Grazie Giancarlo Antonioni. Adesso continuiamo con gli ascoltatori. Già detto di Oscar dalla provincia di Torino, poi Claudio Bologna, Massimo Ferrara. Oscar, buongiorno. Buongiorno dottor Genta. Dica. Senta, io ho sentito che dice che il Grottaglio c'è stata qualche lamentela. Io ho sentito l'intervista completa. Il Grottaglio non si è lamentato, ha semplicemente risposto con la solita pacatezza alla domanda di un giornalista che gli chiedeva come si è sentito all'annuncio che perdevano Antonioni. Certo, non poteva dire che saltava di gioia, però tutto si è fermato lì. Anzi, ha completato la domanda dicendo che nella Juve, dal momento che sono in tre difensori della nazionale, lui, Cannavaro e Chiellini, per lui è uno stimolo a fare meglio e per la nazionale e per la Juventus, ma di lamentele assolutamente non c'è stata. La domanda era completa così, ha risposto pacatamente alla domanda di un giornalista. Ha risposto molto chiaramente Nicola Legrottaglie. Io apprezzo il fatto che non si sia limitato a dire, che non si sia limitato solo alla seconda parte, cioè è arrivato Cannavaro, altro grande giocatore, eccetera. Lui ha detto, è arrivato Cannavaro, se non arrivava, insomma, ero un po' più sicuro di giocare, anche perché nelle ultime due stagioni ho fatto bene, quindi ha risposto bene, senz'altro, Nicola Legrottaglie, senza nascondere comunque uno stato d'animo che non deve essere evidentemente il massimo della gioia attualmente. Grazie della precisazione comunque, Oscar. Claudio Bologna, buongiorno. Claudio? Pronto? Eccoci. Dica. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io per dare un po' anche del Bologna, perché invece che qui non ne parlate mai. Abbiamo fatto giusto ieri e anche l'altro ieri, sì. Volevo chiedere se noi tifosi del Bologna meritiamo tutto questo, che ci stanno prendendo in giro un po' da tutte le parti. Prima che doveva venire un imprenditore, poi doveva venire un altro. E poi anche poi addirittura Moggi, si figuri un po' lei. No, ma guardi, non è questione di meritarsi o non meritarsi le cose. Senz'altro a Bologna ci sono dei problemi, ma ne abbiamo parlato giusto l'altro ieri con Alberto Zaccheroni. Per la seconda volta per la seconda volta in due anni salta un affare che sembrava maturo, una volta con gli americani, una volta con gli albanesi. Morale, questo Bologna rimane lì un po' in mezzo al guado. Insomma, anche questo continuo cambio di proprietà, di dirigenza, eccetera, eccetera, mi fa pensare che non ci sia grande chiarezza di intenti. L'affare ora con questo taxi è svanito, ci sono i Menarini che si ritrovano per le mani una patata onestamente bollente, pare che i conti non siano il massimo della vita, la squadra mi sembra deboluccia, è reduce da un campionato, sottolineava l'altro giorno Zaccheroni, in cui si è salvata per un capello raggranellando pochissimi punti, è stato un finale di stagione in quella del campionato piuttosto anomalo. Insomma, non è questione di meritarsi o non meritarsi un certo destino, è semplicemente il fatto che grande chiarezza di idee a Bologna non esiste. Massimo da Ferrara, buongiorno. Buongiorno, io sono un abbonato della SPAL, che è la squadra di Lega Pro. Volevo sollevare un piccolo problema che non so se avete già affrontato, nel senso che la suddivisione di quest'anno dei gironi, secondo me, è pura follia, nel senso che hanno suddiviso per dividere le squadre, diciamo, le partite pericolose. Poi mi ritrovo comunque come Frarese, che l'anno scorso ha seguito 10 trasferte, si è anche molto divertito, partite come Reggio Emilia, ancora Reggio Emilia, Ravenna e Rimini, a cui non ci faranno mai andare. Io sono un tifoso abbonato della curva, e quindi diciamo, tra virgolette, un ultras, incensurato, ma ultras, e quindi non ci faranno mai andare. E più ci fanno questa suddivisione scellerata, perché lei capisce che andare per una squadra di calcio di Serie C, con i problemi che ci sono oggi, Potenza, Cosenza e quant'altro, una divisione bizzarra. Vorrei dire quale mente malata continua a fare queste cose. No, la saluto per radio. La saluto anch'io, Massimo. Una suddivisione bizzarra che abbiamo già visto in passato e non solo nel calcio. Di tanto in tanto l'Italia viene divisa per il lungo e quindi vengono composti dei gironi che soprattutto in periodi di crisi non sono esattamente auspicabili per le casse di una società. Cosa vuole che le dica? La mente malato bizzarra, io non saprei darle una risposta, mi limito a questa valutazione, ma non è la prima volta che vediamo qualcosa di questo tipo e non solo nel calcio, ripeto. Io saluto e ringrazio invece il collega Giampiero Timossi della Gazzetta dello Sport per chiudere sul discorso già introdotto dagli ascoltatori, cioè quello dei bilanci. Giampiero, buongiorno. Buongiorno a voi. Scrivi oggi appunto di questo bilancio che è tornato in positivo per la Juventus, però gli ascoltatori dicono ma le nostre società come stanno? Le altre società come stanno? Beh, le altre società direi che di questo successo importante della Juventus, ricordiamo che il bilancio è stato tutto in positivo, cosa che non accadeva dalla retrocessione della squadra in Serie B dopo le vicende del calcio CAU, di Calciopoli, quindi questo elemento positivo. Ma forse la chiave sta proprio nella capacità di avere un costo del ingaggio, un costo quindi di giocatori, degli ingaggi dei giocatori che... E purtroppo abbiamo delle difficoltà di collegamento, sappiamo che il collega Giampiero Timossi è... Abbiamo pizzicato in treno e in viaggio verso Salerno, dove questa sera peraltro la Juventus giocherà una partita molto interessante contro il Villarreal. A proposito di Juventus e di questa gara, abbiamo una dichiarazione di Amauri che invece ha un tono diverso rispetto a quella di Le Grottaglie. Abbiamo sentito prima Le Grottaglie, ero qui, è arrivato anche Cannavaro, uno in più, mi piacerebbe giocare come in passato. Invece Amauri la pensa diversamente sull'altra notizia della settimana, cioè quella della permanenza di David Trezeguet. Lo sentiamo, Amauri. Ha fatto una grande una gran cosa rimanere con noi, anche perché, come ho detto, quest'anno siamo più forti e vogliamo tornare a vincere, e anche lui, ha deciso di rimanere e ha fatto la cosa giusta. No, sicuramente siamo oggi come oggi, siamo una bella squadra. E niente, puntiamo tutto su questa stagione, abbiamo preso dei grandissimi giocatori, speriamo di far bene tutto qua. Abbiamo lavorato bene, giustamente non siamo al 100 ancora, però stiamo smaltendo i lavori e tutto qua. Speriamo di fare una bella partita anche questa sera. Stasera 20:45, a proposito di appuntamenti televisivi, la partita verrà trasmessa in diretta su Rai 1, così come, ripeto, domani in diretta su Rai 1 sarà alle 14 ore italiana Inter-Lazio, finale di Supercoppa. A questo proposito mi viene da ridere perché sto leggendo uno degli ultimi messaggi arrivati, questo è di Massimo, che scrive: il prossimo anno si può andare sulla Luna a giocare la Supercoppa, se la faceva la Cesena per esempio e l'Inter vinceva poteva festeggiare con qualche milanese che è in Riviera. Sì, Massimo, io credo sia passato il tempo della Supercoppa Cesena, credo che diverse esigenze siano in questo momento governando il calcio, anche magari per permettere ai bilanci di sorridere un po', insomma. Il mercato asiatico, come sappiamo, è estremamente importante non solo per le italiane ma anche e soprattutto per entità che sono molto più interessate, molto più attive, molto più attente a questi discorsi. Non è un mistero, abbiamo detto molte volte, che Florentino Perez abbia come primo obiettivo l'idea di esportare, di tornare ad esportare il Real Madrid televisivamente dal punto di vista del merchandising, proprio su quei mercati che in questo momento sono innamorati follemente del calcio britannico. Chiudiamo però sentendo cosa ha detto Capitan Zanetti sull'Inter e su quello che tutti si augurano, tutti gli interisti si augurano possa essere il grande protagonista di domani, e cioè Samuel Eto'o alla sua prima ufficiale. Eto'o non ha nessun comportamento strano, siamo contenti che sia con noi. Quello che lui ha vissuto in Barcellona io non lo so perché non c'ero, però mi sembra che ha fatto molto bene perché ha vinto tantissimo e ha fatto tantissimi gol. Questo era Capitan Zanetti, con il quale vi salutiamo, grazie a Laura Varossi per il lavoro in redazione, a Fabio Cantadori in regia. A Tempo di Sport torna domenica dalle 18 alle 19, poi ovviamente tutta la settimana prossima, orario canonico, 14:15. Buona giornata.